Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione riflette infatti sulla società, sul mondo, attraverso il modo in cui gli animali altri vengono considerati, pensati, immaginati, negletti o protetti. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 697, parleremo ancora di clima e alluvioni, con un resoconto dall'Emilia Romagna. Sempre sul clima e alluvioni parleremo di fake news e della irresponsabilità della classe politica che ci governa. Parleremo di rifugi e santuari e del loro rivoluzionario riconoscimento. Non mancherà la consueta ricetta vegana firmata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che questa settimana curerà anche il montaggio musicale della puntata. Speriamo di avervi incuriosito. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di ambiente, maltempo e alluvioni. Sempre una calamità legata all'acqua, anche se non si tratta di alluvioni, è quel che accade a Kherson, dove la diga che è stata fatta saltare per il conflitto armato tra Russia e Ucraina sta uccidendo migliaia di animali. Si torna sempre lì. Animali costretti nei recinti, nei pollai, nelle stalle, animali alla catena che non riescono a mettersi in salvo, ma anche selvatici che hanno i cuccioli. Ci sono video che mostrano abitanti che cercano di scappare, mettendo in salvo i loro pet, ma per ciascun pet che si salva ci sono decine e decine di animali che non ce la faranno a essere salvati. A loro, a tutti gli sfollati, naturalmente, umani e non umani, alle vittime non umane in particolare, va il nostro pensiero preoccupato e solidale. Sempre acqua, sempre ambiente. Torniamo sulla questione dell'Emilia Romagna. Lo facciamo attraverso la voce di un attivista per l'ambiente e per il clima dell'Emilia Romagna. Una cittadina che si è fatta notare nella grande mobilitazione contro i Jova Beach Party. Una cittadina che si è battuta per la preservazione delle spiagge, per la loro protezione, per la protezione della flora e della fauna. Si chiama Linda Maggiori, vive a Faenza, è una persona che consigliamo a tutti di seguire sui social. A lei affidiamo il compito di aggiornarci sulla situazione nella sua area. Sono Linda Maggiori e sono di Faenza e faccio parte di una piccola associazione qui di Faenza che si chiama Faenza Ecologica. E noi appunto ci stiamo battendo ormai da anni contro tutta una serie di progetti di cementificazione, di urbanizzazione anche vicino ai fiumi, e cosa che appunto attualmente è ancora più lampante, che è una follia, con appunto le due alluvioni che si sono manifestate nel giro di un mese. Urbanizzazioni che vengono fatte appunto sempre vicino ai fiumi, come il progetto dell'Orto della Ghilana, dovrebbero essere costruite 12 villette proprio in una zona che è stata allagata proprio recentemente. Poi ecco, ovviamente qui nella nostra zona, quindi in provincia di Ravenna, c'è tutto il discorso del consumo di suolo anche per infrastrutture stradali, quindi per favorire ancora più il traffico su gomma. Ad esempio, proprio qui a Faenza verrà costruita una nuova tangenziale, quindi nella zona a nord della città, che appunto porterà via ovviamente terre, cementificando e impermeabilizzando il suolo, oltre a passare sopra il fiume, quindi ovviamente con rischi anche non indifferenti. Poi questa è la cosiddetta Food Valley, qui in Romagna, così come in Emilia, abbiamo tantissimi allevamenti intensivi, quindi si parla delle zone alluvionate, ci sono 250.000 bovini, ma maiali, pecore e capre, quindi 400 allevamenti avicoli, e c'è stata una vera e propria strage, sono morti decine di migliaia di animali. Questi soprattutto negli allevamenti intensivi, dove appunto per gli animali è stato molto più difficile scappare. Quindi un sistema di morte che oltre a aumentare e contribuire al riscaldamento globale e quindi a questi fenomeni estremi, non riescono nemmeno ad essere resilienti a questo cambiamento climatico e quindi vengono letteralmente spazzate via. Quindi abbiamo un territorio che era già molto inquinato, adesso è ancora più inquinato perché immaginatevi che ci sono nel fango ancora tantissime carcasse di animali, ci sono reflui, ci sono liquidi tossici che si sono dispersi sia dalle auto sia dai distributori di benzina di Velti. Abbiamo veramente una situazione allucinante a livello ambientale. Ci sono ad esempio il depuratore di Formellino che non funziona da 10 giorni, quindi tutti gli scarichi fognari finiscono direttamente nel fiume e poi al mare. Ecco, diciamo che questa alluvione non ha fatto altro che essere la conseguenza di un sistema tossico, di un sistema proprio di morte che sfruttava il territorio e sfruttava la terra e la inquinava, e nello stesso tempo appunto è stato aumentato, ingigantito e decuplicato proprio tutti gli effetti dell'inquinamento, perché appunto non solo sono esondati i fiumi, ma hanno spazzato via, portato via con sé tutti i rifiuti, tutto l'inquinamento, tutti anche a livello proprio di impianti industriali. Sostituire il folklore alla scienza condanna il nostro paese ad altre tragedie. Il WWF è uscito con un comunicato molto articolato, con una denuncia molto pesante, nella quale stigmatizza le affermazioni di importanti esponenti politici e della cultura che hanno dimostrato di non avere alcuna idea delle reali cause di quanto sta accadendo con il cambiamento climatico, né di quali soluzioni potranno essere prese per evitare in futuro il ripetersi di tragedie come quelle della Romagna di pochi giorni fa. Sul dissesto idrogeologico e soprattutto sulla crisi climatica, il dibattito pubblico si svolge senza le necessarie conoscenze ed è purtroppo influenzato da vere e proprie fake news. La corretta informazione, continua il WWF, su questioni così importanti è ingrediente fondamentale, sia per la sicurezza delle persone, sia per l'adozione di politiche efficaci, basate sulle migliori conoscenze scientifiche. Chi nel dibattito pubblico continua a sostenere tesi in contrasto con la scienza e l'evidenza dei fatti, rimandando decisioni o investendo in opere inutili o dannose, si assume una responsabilità enorme rispetto alle prossime tragedie che continueranno a trovare il nostro territorio non pronto agli effetti della crisi climatica. Quindi il WWF in questo lungo comunicato individua e smaschera le principali fake news che stanno girando in questi giorni e che stanno contribuendo a mettere a repentaglio la vita delle persone e naturalmente di tutti gli altri viventi, umani e non umani, inclusi i vegetali. Che bella felpa che ho, che bel sorriso che ho, non mi puoi dire di no, e allora sì, propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Questo comunicato è una forte denuncia della irresponsabilità della nostra classe politica. Facciamo una breve lista di quelle che sono le 10 principali fake news sul dissesto idrogeologico in Italia, rimandando poi al comunicato se vorrete approfondire. Allora, eccone alcuni. Per prevenire disastri serve dragare i fiumi e scavare in alveo. Falso. Il problema sono le briglie, le dighe che interrompono la continuità dei fiumi. E dragare contribuisce a creare fenomeni franosi, peggiorando il dissesto complessivo. Poi, numero 2, per evitare inondazioni bisogna pulire gli alvei tagliando la vegetazione. Questo è falso. Certo, è corretto rimuovere tronchi e rami morti dall'alveo dei fiumi, ma la vegetazione che cresce sulle rive è fondamentale per la loro stabilità, perché rallenta la velocità dell'acqua durante le piene. Andiamo avanti, non si fa manutenzione dei fiumi. È falso, se ne fa anche troppa, ma la si fa male ed è soggetta a dei meccanismi che non garantiscono un'azione mirata. Il problema è l'appalto a privati della rimozione dei sedimenti o del taglio della vegetazione. Questi interventi sono fatti malamente e sono spesso sovradimensionati, distruggono la vegetazione con un aumento del rischio. Ancora, la colpa delle inondazioni e del dissesto idrogeologico è delle nutrie e altri animali. Falsissimo! Il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto per frane e alluvioni e in gran parte di essi nutrie ed altri animali fossori non sono presenti. La migliore delle soluzioni è la modulazione della pendenza degli argini dei fiumi. Ancora, per evitare inondazioni serve innalzare gli argini lungo tutto il reticolo idrogeografico. Questo è falso, gli argini non devono essere rialzati ulteriormente. Al contrario, deve essere semmai ampliata l'area di esondazione dei fiumi, prevedendo di spostare gli argini in modo da ridare spazio ai fiumi. E poi ancora, servono più infrastrutture. Ovviamente è falso, il 10% del territorio italiano è cementificato, incluse le aree a rischio inondazione, e questa situazione è particolarmente grave perché crea una impermeabilizzazione del suolo che impedisce l'infiltrazione dell'acqua e la ricarica delle falde acquifere, aumentando lo scorrimento superficiale, riducendo il tempo impiegato dall'acqua per raggiungere i fiumi. Quindi il tempo di corrivazione che invece andrebbe aumentato. E poi ancora addirittura il cambiamento climatico non c'entra nulla. Ovviamente è falso, il cambiamento climatico causato dalle emissioni di gas serra da parte delle attività antropiche, sulle cui cause le comunità scientifiche di tutto il mondo concordano ormai da anni, altera fortemente i cicli idrologici, allunga i periodi di aridità alternati da periodi di piogge intense, sempre più frequenti, con caratteristiche monsoniche. Sta a noi agire per limitare al più presto le emissioni, evitare scenari peggiori e adattarci al cambiamento climatico in atto. Ciliegina sulla torta, una certa retorica vorrebbe addossare la colpa dell'alluvione agli ambientalisti che hanno vietato ogni opera. Anche questo è del tutto falso. Gli ambientalisti non hanno mai governato alcuna regione italiana, né tantomeno hanno avuto voce in capitolo nelle scelte di governo nazionale e regionale. I governatori regionali investiti del ruolo di commissario straordinario per il dissesto idrogeologico da parecchi anni avrebbero potuto muoversi facilmente, spesso anche in deroga a molti vincoli. Viceversa, da decenni gli ambientalisti segnalano i rischi, ma non sono mai stati presi in considerazione. Siamo quindi davvero a una situazione paradossale. Si arriva ad accusare chi da 30 anni lancia allarmi su fiumi e territorio perché semplicemente quello che avevano annunciato si è avverato. Non mi arrendo, ma per essere sincero io non trovo proprio niente che assomigli al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. Capita raramente di poter dare una notizia davvero positiva. Quando accade, ci teniamo a dare la giusta enfasi. Per la prima volta nella storia, in un atto normativo istituzionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si legge la parola santuari, strutture, rifugio per animali salvati o sottratti da allevamenti intensivi, come realtà a sé e non più come una sottocategoria degli allevamenti. Non è la rivoluzione, non ancora, continuiamo a soffrire per i milioni di animali che entrano nel tritacarne dei macelli in ogni singolo giorno, ma in qualche modo è anche già una rivoluzione, perché si è aperta una breccia che nessuno potrà ormai più chiudere. Nel carnismo, nello specismo, nella compatta ideologia dello sfruttamento del più debole, che non ha mai accettato, proprio per salvaguardare la propria esistenza, di considerare che gli animali dal reddito fossero anche dei viventi, viventi con altre possibilità esistenziali. Da oggi non è più così, o non è più solo così. I primi a esultare per questa vittoria sono proprio loro, le persone che stanno tenendo aperti e gestiscono rifugi e santuari italiani. Una rete che si chiama Rete dei Santuari di Animali Liberi e che ha subito pubblicato dei post e preso la parola per gioire di questo risultato incredibile. Abbiamo sentito Sara D'Angelo del Rifugio Santuario Vita da Cani, che rappresenta questa rete, e le abbiamo chiesto un commento a caldo. Sono Sara D'Angelo di Vita da Cani e della Rete dei Santuari di Animali Liberi. Con grandissima gioia commento la notizia che finalmente i santuari sono riconosciuti come qualcosa di differente dagli allevamenti. È stato un percorso lungo, una strada in salita. Abbiamo iniziato più di 10 anni fa un confronto e delle richieste al Ministero della Salute, percorso che è stato si è inceppato tante volte nel corso del tempo, ha avuto delle accelerazioni, poi di nuovo delle frenate, ma eccoci qua. Così con l'uscita del manuale operativo, uscito con decreto ministeriale del 7 marzo del 2023, pubblicato lo scorso 16 maggio in Gazzetta Ufficiale, leggiamo per la prima volta la parola santuario in un documento del Ministero. Facendo riferimento al decreto legislativo 134 del 2022, vengono elencate tutte le strutture che detengono e nel nostro caso ospitano gli animali, e tra queste leggiamo la struttura rifugio permanente, tra parentesi, cosiddetto santuario, che ricovera bovini, equini, suini, ovi caprini, eccetera. C'è proprio scritto la parola santuario. Per noi è veramente commovente, sembra la realizzazione di un mondo sottosopra, un mondo alla rovescia, perché in qualche modo si ribalta il paradigma che ha sempre voluto i santuari sotto l'orribile cappello degli allevamenti. Invece, finalmente, anche la burocrazia, il legislatore, i controllori lo sanno e lo sapranno: noi non siamo allevamenti, non lo siamo mai stati e non lo saremo mai. Sicuramente ciò che accade adesso non è completamente risolutivo, c'è ancora un cammino, questo per noi, lo ribadiamo, è un punto di partenza che però apre una finestra a infinite possibilità. Perché cos'è accaduto? Che finalmente gli ospiti dei santuari acquisiscono al 100% la qualifica di non DPA, non destinabili per l'alimentazione, status che prima era concesso soltanto all'equino, che poteva avere il doppio destino, purtroppo, quello di destinabile all'alimentazione e quello invece di animale tra virgolette da compagnia. Adesso tutti, dal bovino al suino all'ovicaprino, Se sono ospiti dei santuari, animali non DPA, quindi li abbiamo definitivamente affrancati dalla filiera produttiva, cioè al di là che prima noi stessi sapevamo che erano animali rifugiati e salvi, per il controllore legislatore erano comunque carne che cammina. Adesso non è più così, sono irrimediabilmente sottratti alla filiera produttiva. È un risultato enorme, ancora dovremmo andare avanti nelle trattative perché abbiamo proposto il microchip come segno identificativo, ma quello è un simbolo. Piano piano arriveremo anche a togliere quelle marche che mai ci sono piaciute. È anche vero che le marche non ci piacevano perché rappresentavano il mondo di sfruttamento da cui li volevamo togliere. Oggi non fanno più parte di quel mondo dello sfruttamento, quindi è importantissimo, saremo presenti nella banca dati, la BDN nazionale degli animali cosiddetti da reddito, ma in una particolarissima sezione, quella SINAC, ovvero degli animali da compagnia, dove prima solo i cani, i gatti e i furetti potevano essere. L'aspetto rivoluzionario è che grazie al nostro lavoro e all'insistenza, a questo lunghissimo percorso, ora anche i maiali, le capre, le pecore, i bovini potranno essere considerati animali da compagnia. Siamo felicissimi, vi aspettiamo tutti il 18 di giugno al Santuario Porci Comodi di Magnago per l'Independence Day, una giornata dedicata ai santuari e a questo straordinario risultato. Aggiungiamo che in Italia alcuni individui che fanno parte di specie nate, inventate per dare reddito, se ospitate da un santuario, sono affrancate dal sistema produttivo. È come avere un territorio a sé e la mente va all'ambasciata d'Italia a Buenos Aires in Argentina, quando più di 300 perseguitati dal regime militare argentino si sono salvati rifugiandosi in questa ambasciata. Ecco, i santuari funzionano così: animali che erano destinati a morire in un macello trovano in un santuario la possibilità di vivere la loro vita fino in fondo, in libertà, essendo comunque rispettati nei loro desideri, nei loro bisogni, nella loro fisicità. Il nostro paese è l'unico al mondo, almeno ci sembra per le nostre conoscenze che sia l'unico al mondo ad avere adottato questo nuovo regime, e nonostante quindi la nostra inadeguatezza, arretratezza e anche violenta cultura agroalimentare, stavolta l'Italia è pioniera di un mondo che inizia a esistere proprio oggi con questa breccia, con questa possibilità. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. Stavolta gli abbiamo chiesto di dedicare la sua creatività in cucina alla breccia che si è aperta e che salvaguarderà gli ospiti di rifugi e santuari per animali liberati dallo sfruttamento. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Finalmente i santuari sono stati riconosciuti giuridicamente dal Ministero della Salute e noi celebriamo questa vittoria dedicando una ricetta ai nostri amati rifugi permanenti per animali liberi, con un piatto tipico dei rifugi per l'appunto. Gli ingredienti per l'Apfelschmerren, frittata dolce di mele, sono 100 g di farina tipo 0, 100 g di farina di ceci, 200 ml di latte di mandorle, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di olio di semi di girasole, dello zucchero a velo, un cucchiaio di rum, un pizzico di sale, un pizzico di cannella, 40 g di zucchero di canna, 200 g di mele tagliate a fette sottili, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele. Stemperate la farina di ceci e la farina zero con il latte di mandorle ed il rum fino ad ottenere una pastella liscia e piuttosto liquida. Unite un cucchiaio di olio, un cucchiaio di zucchero a velo e un pizzico di sale. Lasciate riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo saltate le mele precedentemente sbucciate e affettate finemente in una padella con poco olio di semi. Aggiungete lo zucchero di canna e la cannella e fate rosolare per qualche minuto. Lasciate intiepidire e unite il tutto alla pastella. Appena prima di cuocere aggiungete il bicarbonato e l'aceto di mele e mescolate un'ultima volta. Fate scaldare bene un cucchiaio di olio extravergine in una padella, versate il composto e fate cuocere a fuoco lento con un coperchio per una decina di minuti su entrambi i lati, oppure in forno a 180 gradi per 20 minuti. A cottura ultimata spezzettate lo schmerren con due forchette, cospargete di zucchero a velo e fate caramellare sul fornello. Sistemate nei piatti e decorate con altro zucchero a velo prima di servire. Gabriele Palloni, autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. È una puntata davvero strana, non solo siamo riusciti a dare una bella notizia, quella dei santuari, ma ci proponiamo anche di chiudere con una bellissima epifania. Infatti è arrivata un'agenzia che afferma che la tartaruga Caretta Caretta ha portato a termine la sua prima nidificazione della stagione 2023 sull'isola di Lampedusa, un'isola simbolica per la possibilità di approdare e quindi di avere un futuro per tante tante vite umane. Nella riserva naturale istituita dalla regione siciliana, affidata in gestione a Legambiente Sicilia, quindi operatori e operatrici hanno recintato e segnalato il nido di Caretta Caretta per proteggerlo fino alla sua schiusa, che avverrà tra circa 2 mesi. Come ogni anno, Legambiente organizza anche campi di volontariato per il monitoraggio, il controllo, la sensibilizzazione alla protezione di questi nidi. L'invito è a partecipare per un'esperienza formativa ed emozionante a difesa della natura, spiegano dall'associazione ambientalista. Quindi quello che noi vogliamo fare è invitarvi a visitare volontariato.legambiente.it, dove troverete un accurato questionario per ottenere un piano di volontariato fatto su misura per voi, personalizzato sulla base delle vostre esigenze. C'è un questionario da compilare online, le domande poste sono dove vuoi andare, quanti anni hai, quando vuoi partecipare, scegli la lunghezza del periodo, scegli la campagna che ti interessa di più, cosa vuoi fare. Dunque tantissime possibilità diverse per famiglie, per adulti, per ragazzi, in Italia e non solo, anche all'estero. Le vostre vacanze potranno quindi diventare un'occasione preziosa per voi, per l'ambiente e anche per gli altri animali. Lampedusa we go, go, go, for a better life we roll. Yeah. Oh, Dolce Musa, put me a Lampedusa. Oh, Dolce Musa. Non dimenticate poi gli altri animali quando compilate la vostra denuncia dei redditi. A voi non costa niente donare il 5 per 1000 a una realtà che si occupa di loro, ma per loro può fare la differenza. Noi consigliamo, per riprendere anche solo qualcuna delle realtà che conosciamo più da vicino, che abbiamo verificato, delle quali ci fidiamo, ma ovviamente non sono le sole le uniche, ce ne sono tantissime altre. Noi consigliamo di donare 5 per 1000 a Vita da Cani, ODV, LIPU, LAV, il Centro della Ninna, specializzato sui ricci, il Centro Liberi di Volare di Trieste, specializzato in rondoni, il Parco dell'Abatino, in provincia di Rieti, e poi i Poasi, ODV, AgriPunk Onlus. Questi sono santuari, quelli che sono stati proprio recentemente riconosciuti. Stiamo lasciando indietro altre realtà semplicemente perché tutte non riusciamo a menzionarle, ma sulla nostra pagina metteremo un post con una lista più completa. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 698 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.